Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 11 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Subito i temi: la borsa va bene in Europa, abbastanza bene a Milano, dove però pesa per un 2% lo stacco dei dividendi, lo stacco delle cedole, come si chiama in gergo, e quindi gli utili distribuiti agli azionisti pesano poi sui titoli, perché il titolo si riporta in basso seconda, perdendo quello che è lo stacco. Detto questo, però, Milano guadagna l'1,6% sull'S&P MIB e l'1% sul MIB. Se sommiamo il 2% sarebbe, cioè fatto salvo lo stacco dei dividendi, la miglior borsa in Europa in questo momento, perché Parigi fa il 2,1%, Francoforte il 2,3%, Londra il 2,1%, l'America guadagna l'1,8% sul Dow Jones e l'1,3% sul Nasdaq. Dicevo, al netto dello stacco cedole saremmo a un più 3,6%, e quindi ottimo risultato per Milano oggi, e il risultato si chiama soprattutto Unicredit, più 12,80%, la banca guidata da Alessandro Profumo, che torna a 1,80 euro per azione. Molto forte anche la CIR, sopra l'euro per azione, 9,25% in rialzo. ST Microelectronics sopra i 5 euro, più 8%, Mediolanum sopra i 3,40 euro in rialzo del 7%, poi in pregiro più 6,5%, Popolare Milano più 6, Fondiaria più 4,80 come Banco Popolare, Monte dei Paschi più 4,40 come Telecom Italia e Intesa San Paolo. Infine chiudiamo con Pirelli e Fiat, che guadagnano il 3,5%, Geox e Parmalat il 3,3% come le generali, e ancora il 3,2% lo guadagna Ansaldo, Luxottica e Tenaris. C'è un unico titolo negativo, è Snam Rete Gas, meno 2,4%. Quindi inizia bene la settimana per quello che riguarda la borsa. Parleremo dei salari degli italiani, di questo dato molto penalizzante da parte dell'OCSE, ci vede nelle ultime posizioni come potere d'acquisto, e è colpa, ma non solo, del cosiddetto cuneo fiscale. Dicevo, parleremo del redditi degli italiani al netto delle tasse, dato OCSE abbastanza così mortificante per i redditi e i salari del nostro paese, siamo dietro anche alla Grecia, come potere d'acquisto chiaramente. E il cuneo fiscale pesa, ossia la differenza tra quanto costa un lavoratore all'azienda e quanto poi becca il lavoratore in busta paga. Questa differenza è la parte che si piglia il fisco, o in generale i contributi. Da noi pesa per un 46%, cioè su 100 euro 46,5 se ne vanno in contributi, ma devo dire che in Germania e in Francia e anche in Austria è più alto, eppure Germania e Francia hanno salari meglio messi quanto potere d'acquisto, quindi non è solo il cuneo fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche della vicenda all'Italia, oggi novità arrivate sia dai vertici all'Italia che dai vertici di Malpensa, e nella seconda ora del programma della settimana decisiva per Opel, come ha detto il cancelliere Angela Merkel, questa settimana sarà decisiva. Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, è stato avvistato di nuovo nello stabilimento tedesco della Opel, nella sede della Opel, questo dopo chiaramente anche le tensioni che si sono generate, ne avete letto sui giornali, dell'assalto a Rinaldi da parte dei Cobas alla manifestazione dei dipendenti della Fiat. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Ancora, ci chiedete dello stacco cedola. Sì, anche Unicredit ha staccato la cedola e il dividendo, eppure guadagna, perché di solito appunto questo penalizza un po', guadagna il 12,7%, avvicina a 1,80 euro per azione. Andiamo avanti con le notizie. Il petrolio a $58 al barile, oggi a Wall Street tra l'altro debutta il cosiddetto indice dei falliti, ossia 24 società che hanno ricevuto aiuti pubblici per almeno 1 miliardo di euro. È un indice quindi di chi ha avuto bisogno della mamma dello Stato per sopravvivere, l'ha creato la società Nasdaq. E l'indice è già stato battezzato appunto l'indice dei falliti, ma dentro ci sono nomi molto blasonati come Citigroup, General Motors, Bank of America e Morgan Stanley. Ancora di Fiat, vedo che già ci scrivete, ne parleremo nella seconda ora del programma. Vi confermo che la Merkel ha definito la settimana come decisiva e che sulla stampa tedesca è stata ventilata l'ipotesi che in cambio dell'accordo con Opel verrebbe eliminato il marchio Lancia. Non vi è alcuna dichiarazione da parte della Fiat e la notizia, o perlomeno l'ipotesi, è presente su un settimanale tedesco dedicato alle quattro ruote, quindi da prendere con estrema cautela. L'economia italiana, la produzione dell'industria metalmeccanica, che insomma è una delle 4A, come dice Marco Fortis, del nostro Made in Italy, assieme all'alimentare, all'abbigliamento, all'arredo e mobilio, c'è poi l'automazione e appunto la meccanica gioca un peso da leone in questo. La produzione dell'industria metalmeccanica ha fatto segnare un meno 30% nei primi tre mesi dell'anno rispetto all'anno scorso, e meno 13,4 rispetto all'ultimo trimestre. Continuano quindi ad arrivare i dati che fotografano un trimestre 2009 disastroso, e tutti ci attendiamo che invece aprile, maggio e poi eventualmente anche giugno diano dati in miglioramento. E il 41% delle imprese metalmeccaniche interrogate prevedono nei prossimi 6 mesi una riduzione dei propri organici. Oggi i dati sono stati diffusi durante l'assemblea e l'indagine congiunturale sul settore della Federmeccanica. Sentiamo Luciano Miotto, che è vicepresidente di Federmeccanica, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. I nostri dati hanno evidenziato che durante il primo trimestre del 2009 le cose sono andate peggio del trimestre precedente. I dati conclusivi indicano un'annata veramente brutta, una previsione per un PIL che effettivamente sarà almeno meno 4, forse meno 5% rispetto all'anno precedente. Oggi a qualche indicazione, diciamo negli ultimi 15 giorni, viene qualche indicazione positiva, però direi che una rondine non può fare primavera e che abbiamo bisogno di qualche cosa di più sostanzioso per poter sperare che le previsioni per il secondo trimestre e in generale per tutto il 2009 possano, non dico diventare positive, ma meno negative. Comunque ci aspettiamo un'annata veramente negativa. Quindi un andamento negativo che si riflette anche sulla produzione, sul fatturato, anche sul ricorso alla cassa integrazione? Un andamento negativo che si riflette su tutti i fattori della produzione, per cui diminuzione della produzione, diminuzione dei fatturati, diminuzione delle ore lavorate, diminuzione dell'occupazione. L'aspettativa è numeri negativi, non ci sono indicazioni per poter pensare che l'anno 2009 possa essere un anno nemmeno in grado di raggiungere i valori del 2008. Così il vicepresidente di Federmeccanica Luciano Miotto, ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma. Ancora per quello che riguarda le notizie sulla produzione industriale, segnalo che nei primi 4 mesi, quindi il dato relativo anche ad aprile, in Russia continua a andare malissimo l'economia, meno 15% la produzione industriale, che nel solo mese di aprile è calata dell'8% rispetto al mese precedente. Va bene, si fa per dire. Parleremo, ripeto, poi anche delle dichiarazioni di Roberto Colaninno, presidente di Alitalia, che ha detto quanto prima avremo tratte intercontinentali anche dalla Malpensa. Sempre di Malpensa si parla. I salari, i redditi degli italiani, ma non solo, i redditi dei paesi che aderiscono all'OCSE, si parla quindi di soldi, e quelli in tasca ai nostri lavoratori dipendenti sono pochini. Italia al 23° posto, il 17% in meno nei salari, negli stipendi degli italiani rispetto alla media dell'OCSE, ossia un salario netto di $21.374, che colloca il nostro paese al 23° posto della classifica. La cosa di per sé stessa già dispiace, ma fa impressione che le buste paga più pesanti siano non solo in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, questo ce lo immaginavamo, ma anche in Grecia e Spagna. Questo rapporto OCSE sulla tassazione dei salari, si dice, beh, noi abbiamo una tassazione più alta. È sicuramente uno dei motivi, e anche uno dei motivi più pesanti, non è e non può essere l'unico, perché Germania e Francia hanno un cuneo fiscale più alto del nostro, noi ce l'abbiamo al 46%, la differenza tra quanto uno versa come datore di lavoro e quanto entra nelle tasche del lavoratore, in Germania è al 52%, in Francia al 49%. Tutti i dati e la classifica in questa scheda. Retribuzioni non esaltanti e un prelievo fiscale tra i più alti d'Europa. Così, una volta pagati tasse e contributi, a un lavoratore italiano rimangono in tasca ogni mese poco più di 1.200 euro in media. In pratica, fatte le debite proporzioni, in merito al diverso costo della vita, in 22 paesi OCSE su 30, il potere d'acquisto dei salari è più alto che in Italia. Si guarda, ad esempio, con invidia la Francia, dove le buste paga valgono di fatto il 18% in più, o la Germania, dove i portafogli dei lavoratori si riempiono di circa il 30% in più. Quasi un miraggio, poi, le buste paga inglesi, che quanto a potere d'acquisto valgono mediamente il 44% in più delle nostre. Il vero guaio è però che ormai a sopravanzarci sono anche spagnoli e greci, mentre in Europa occidentale, peggio di noi, stanno solo i portoghesi. Parte della colpa va al cosiddetto cuneo fiscale, ossia la differenza tra quanto un'azienda paga per un dipendente e quanto rimane effettivamente in tasca al lavoratore una volta tolti i contributi e tasse. In Italia questa differenza vale il 46,5% dello stipendio lordo, vale a dire il sesto livello più alto su 30 paesi OCSE. Ma non è solo questo il motivo. Il cuneo fiscale è infatti ancora più marcato in Austria, Belgio, Francia o Germania. E anche prendendo in esame lo stipendio lordo, la posizione dell'Italia resta quasi invariata, passando dal 23° posto al 22° su 30 paesi OCSE. Non cambia nulla neppure al variare del nucleo familiare. La posizione in classifica resta infatti la medesima, sia che si tratti di un lavoratore single, sia che si tratti di una famiglia a doppio reddito con due figli a carico. E le parole magiche, tecniche, delle volte si chiamano cuneo fiscale, lo ricordava anche la nostra scheda, cos'è la differenza tra quanto costo io al datore di lavoro e quanto poi becco in busta paga. L'altra parola magica, tra virgolette, è produttività, ossia si dice i nostri salari sono più bassi anche di quelli greci e spagnoli a parità di potere, cioè di costo della vita, quindi come potere d'acquisto, e questo veramente un po' ci deprime. Perché abbiamo un'alta tassazione, in effetti dopo la Francia e la Germania arriviamo noi, ma abbiamo anche una bassa produttività e qui la situazione si complica, tra virgolette. Professor Pietro Garibaldi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, le chiederò di fare il suo lavoro, nel senso di fare il docente in questa prima parte, perché lei insegna economia politica all'Università di Torino, è editorialista della Stampa. Che cosa vuol dire produttività? Perché sennò poi non riusciamo più ad andare avanti con il ragionamento. E che cosa vuol dire che l'Italia abbia in questi 15 anni, dal 95-97 in poi, aumentato la sua differenza, quindi aver visto calare la produttività rispetto agli altri paesi europei? Beh, produttività in questo caso è produttività del lavoro, ossia il rapporto tra il prodotto del paese, il PIL, e il numero di lavoratori. Quindi perché affinché questa grandezza cresca, che è una grandezza fondamentale per i salari, perché nel lungo medio periodo il salario riflette esattamente la produttività, è necessario che un'economia cresca, ossia che il PIL di anno in anno aumenti. Noi sappiamo che dal 95, come ricordava lei e anche in passato ne abbiamo parlato, l'Italia è sempre cresciuta sotto la media europea. Quindi queste piccole differenze anno per anno sommate cosa implicano? Implicano che paesi diventino via via più produttivi, anche paesi quali la Spagna ovviamente, e quindi il salario che riflette questa grandezza cresca di più in quei paesi. E quindi purtroppo lo specchio del dato OCSE è l'altra faccia della medaglia della bassa crescita della produttività. Cioè, mi scusi, lei sta dicendo che se la produttività italiana aumentasse, aumenterebbero di conseguenza anche gli stipendi? Assolutamente, il salario riflette nel medio periodo uno a uno il livello di produttività, e quindi il salario cresce quando la produttività cresce. No, perché oggi il ministro Sacconi, il ministro welfare Maurizio Sacconi, ha annunciato che per uscire dalla crisi e rilanciare i salari è giunto il momento di legare le retribuzioni ai risultati, favorendo la partecipazione dei lavoratori alle imprese e al suo azionariato. E la proposta può diventare legge entro quest'anno. E quindi quello sarebbe un... Allora, mi dica. Questo ha a che fare con la riforma del sistema contrattuale, perché certo, noi abbiamo un sistema contrattuale in cui il salario è in larga parte deciso e negoziato a livello centrale. Aumentare il peso della contrattazione aziendale, ossia il contratto di secondo livello, più vicino a dove la produttività si forma, ossia in azienda, va nella direzione indubbiamente di facilitare questo legame, ma il legame comunque esiste lo stesso a livello macroeconomico. Quindi abbiamo sempre detto, anch'io stesso, che la riforma del sistema contrattuale è desiderabile. Quindi dobbiamo Allora, vediamo se ho capito. Lei dice, se si riforma, come si sta facendo, il modello contrattuale, è chiaro che legare in questo caso al risultato di un'impresa anche lo stipendio dovrebbe permettere di avere anche adeguamenti più corrispondenti. Più immediati. Più immediati e più corrispondenti come va l'impresa. Però se complessivamente il paese continua ad avere un deficit, una debolezza nella sua produttività, diciamo, la variabile macroeconomica non può essere risolta dalle singole iniziative aziendali, ho capito bene? Esatto, se il paese non cresce, se continuiamo ad avere PIL di 0, non possiamo pensare che questa classifica dura come è venga con una bacchetta magica invertita. Allora, io non so se sia un segno dei tempi, però dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 moltissimi citano, sì, stipendi più bassi, ma quelli dei parlamentari sono quelli più alti. Ora, occupiamoci di retribuzioni. Le retribuzioni dei parlamentari, cosa volete che vi dica? Il tema della casta è durato una stagione, è già terminato e va bene così, insomma, evidentemente. Però restiamo sulle retribuzioni, su come le retribuzioni possono crescere senza erodere a quel punto competitività, perché è chiaro che se i nostri salari costano molto, le imprese poi vanno o a delocalizzare o hanno difficoltà a competere. L'unico modo per far crescere i salari senza erodere competitività delle imprese è che aumenti la produttività complessiva del sistema, quindi il giro d'affari delle imprese e il PIL del paese. Altri modi non ne vedo, a meno che non si vogliano ridurre le tasse, ma poi facciamo i conti con il debito pubblico e quindi con le entrate fiscali, e non mi sembra un bel periodo per le entrate fiscali. ...17.35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Abbiamo capito del rapporto OCSE sui bassi salari netti degli italiani, che le tasse pesano, il cosiddetto cuneo fiscale, ma non può essere l'unico motivo. Lo dico anche a chi scrive, perché, ripeto, Germania, Francia hanno potere d'acquisto come salari più alto del nostro, ma anche tasse, cioè cuneo fiscale più alto del nostro. Certo che avere 46,5 euro su 100 di busta paga lorda che se ne vanno in tasse o contributi o quant'altro è pesante, però ripeto, Austria, Francia, Germania e Belgio sono messi peggio di noi, ma riescono ad avere un potere d'acquisto più alto. L'altro grosso problema è, quindi, non è solo il fisco, è la produttività. Se il paese non cresce o cresce meno degli altri, è difficile che i salari crescano, e lo ricordava il professor Pietro Garibaldi in collegamento con noi. Prima di arrivare a un altro aspetto che suggeriscono anche molti ascoltatori, professore, ossia l'evasione fiscale, perché poi 2 lavoratori su 10 in questo paese non pagano tasse, e questo obbliga anche le altre imprese, quelle corrette, a dover praticare, avere pressioni sui profitti, e questo, e vorrei arrivare a questo fra un minuto. Le faccio ascoltare che tipo di metodo e quale commento ha dato i risultati dell'OCSE, chi li ha curati, li ha coordinati. Sul capo divisione dell'OCSE sul mercato del lavoro, Stefano Scarpetta, intervistato dal nostro Simone Spezia. Quello che abbiamo misurato è il salario medio, quindi poi c'è anche una dispersione dei salari, nel senso che in Italia vi è stata, così come in molti altri paesi dell'OCSE, anche un aumento della dispersione dei salari, nel senso ci sono, soprattutto nella parte più elevata dei salari, sono stati aumenti salariali più elevati rispetto alla parte, diciamo, inferiore della distribuzione dei salari. Questo è uno degli elementi. Però è vero, non è un fatto nuovissimo, il fatto che in Italia il salario medio netto, quindi quello che poi va in tasca al lavoratore, effettivamente è decisamente più basso sia rispetto alla media OCSE che rispetto anche a diversi molti paesi europei. In Italia, tra altre cose, vi è un cuneo fiscale, quindi diciamo il carico fiscale complessivo particolarmente elevato, che la pone in realtà al sesto posto per un individuo senza carichi familiari, e anche se dovessimo tener conto appunto dei sussidi o della ridistribuzione che avviene per le famiglie con figli a carico, comunque l'Italia in una famiglia tipo è sempre al nono posto nella distribuzione dei paesi OCSE. Quindi ci sono due elementi: uno è il salario lordo relativamente basso, e anche un salario netto che è più basso che in altri paesi a causa di un cuneo fiscale elevato. Ecco, ma da cosa dipende? Da tanti fattori. Infatti, un fattore sicuramente che ha portato all'evoluzione che si è avuta in Italia rispetto ad altri paesi è stata una crescita economica e una crescita della produttività più bassa rispetto a quella di molti altri paesi dell'OCSE, e quindi un periodo lungo di crescita bassa associata con una crescita della produttività anch'essa relativamente bassa ha fatto sì che i salari non sono potuti crescere tanto quanto quello osservato in altri paesi OCSE. Il fatto che anche i salari lordi siano così bassi fa pensare che non sia tutta colpa del cuneo fiscale, quindi? Diciamo, il salario lordo è legato alla produttività, e appunto l'Italia purtroppo ha avuto negli ultimi 10 anni tassi di crescita della produttività abbastanza limitati. L'Italia è un paese in cui si è avuta una crescita economica non particolarmente forte, anzi direi decisamente bassa, a fronte della quale però c'è stata, direi per fortuna, una crescita occupazionale. Quando si ha crescita economica bassa e allo stesso tempo una crescita occupazionale importante, ovviamente la produttività del lavoro è molto bassa, se non addirittura negativa in alcuni casi, in alcuni anni. E quindi ovviamente la retribuzione media non è potuta aumentare così come quanto si è avuto in altri paesi che hanno avuto una crescita economica più sostenuta che in Italia. Come se ne esce? Ma se ne esce attraverso delle riforme che possano stimolare una crescita economica più sostenuta. Una crescita economica più sostenuta è ovviamente una crescita più sostenuta anche della produttività del lavoro. Questi sono i due elementi fondamentali per poter promuovere una crescita salariale e delle retribuzioni più importanti. E quindi questo ci rimanda ad un'agenda più complessiva, che sia quella giustamente di promuovere una crescita economica sostenuta. E dall'altro lato, a una crescita economica sostenuta deve anche affiancarsi delle politiche e delle riforme che possono aiutare a ridurre il cuneo fiscale, perché appunto c'è anche un peso, diciamo, del sistema del fiscale abbastanza importante, che fa sì che poi quello che è il reddito netto che va in tasca al lavoratore è ancora più basso, è molto più basso di quanto non sia il reddito lordo. Il suo reddito lordo, di più che in altri paesi. Semplicemente un esempio: esistono due paesi che hanno avuto vero tassi di crescita economici più sostenuti che l'Italia, ma in cui il cuneo fiscale è più basso, per cui il reddito lordo è vicino a quello della Spagna o addirittura decisamente inferiore come quello della Nuova Zelanda, ma il reddito netto è più elevato in questi due paesi di quanto non sia in Italia, perché hanno cunei fiscali più bassi. Il rapporto si riferisce al 2008 ed è nella seconda parte dell'anno che si sono fatti sentire gli effetti sull'economia reale della crisi finanziaria. Avete dati o informazioni che vi dicano che il livello dei salari si è abbassato in questo periodo dell'anno, nella seconda parte dell'anno? Ma la crisi economica appunto è cominciata in una buona parte dei paesi OCSE soprattutto nella seconda metà del 2008, quindi diciamo i dati che abbiamo a disposizione ancora non rilevano completamente gli effetti della crisi. Sicuramente c'è stato un forte rallentamento, adesso l'area OCSE è in un periodo di recessione e questo quindi avrà delle implicazioni sia a livello occupazionale, e lo abbiamo già visto soprattutto in alcuni paesi come la Spagna, l'Irlanda, gli Stati Uniti, ma più di recente in quasi tutti i paesi OCSE, e possibilmente anche sulle retribuzioni. Dunque, professor Garibaldi, mi sembra che il capo della divisione mercato del lavoro dell'OCSE, Scarpetta, abbia chiarito vari aspetti sia sulla parte netta che sulla parte lorda. Resta un punto di fondo. Visto che la Francia è l'unico paese che sta sentendo meno la recessione economica, lo raccontavamo la settimana scorsa, ha una recessione che è meno della metà rispetto a quella italiana e tedesca, perché riesce ad avere una buona o comunque, visto il periodo, discreta tenuta dei consumi interni. Il tema dei consumi in questo momento è un tema anticrisi, non è semplicemente che bisogna pagare di più il lavoro dipendente così per fargli un favore, perché di export se ne vede gran poco in giro in questo momento, finché l'economia mondiale non ripartirà. Lei suggerisce di aumentare la produttività attraverso gli investimenti infrastrutturali, la pubblica amministrazione che deve essere più efficiente, la formazione scolastica e universitaria e tutto un insieme di altri elementi. Però questa è una cosa che richiede tempo, non possiamo pensare di farla in uno, due, tre anni. La via più veloce non sarebbe abbassare di qualche altro punto il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, trovando i soldi dalla lotta all'evasione? No, allora, ma non bisogna pensare che abbassare il cuneo fiscale non sia una cosa desiderabile. Cioè, quello che abbiamo detto, lo diceva anche Stefano Scarpetta, è che non è l'unico strumento e non è l'unica spiegazione, perché l'esempio di Francia e Germania l'abbiamo appena fatto. Detto ciò, se riuscissimo a abbassare in un modo compatibile con le finanze pubbliche il cuneo fiscale, penso che faremmo una cosa desiderabile. Quindi questo è molto importante dirlo. Come si può fare? È ovvio che la lotta all'evasione in questo caso avrebbe un doppio effetto, perché uno direttamente permetterebbe di finanziare la riduzione di entrate derivante dall'abbattimento del cuneo fiscale. Secondo, ridurrebbe anche quella concorrenza sleale che è in essere dalle imprese che di fatto non pagano alcun contributo perché lavorano in nero. Se lavoro in nero posso essere, paradossalmente, sul reddito netto posso essere più generoso, e questo ha l'effetto di ridurre complessivamente i salari per quelle imprese che ovviamente devono invece rispondere a tutte le esigenze fiscali. Sì, e tra l'altro su questo bisogna stare anche molto attenti, perché noi abbiamo un'evasione fuori di ogni controllo, 100 miliardi di euro stimata, basterebbe portarla a livelli in media con l'Europa, e poi nessuno, lo dico chi scrive, vuole colpire chi evade poco su un reddito, ma qui stiamo parlando di persone completamente in nero, imprese completamente in nero, 2 lavoratori su 10 che non pagano alcuna tassa, non che pagano un po' meno delle tasse, cerchiamo di essere realistici, nessuno sta pensando a quello. Si tratta di recuperare decine di miliardi da chi fa concorrenza sleale alle imprese e ai lavoratori che invece le tasse le pagano, e per di più non contribuisce in nulla, magari poi finisce anche nelle classifiche migliori perché ha un reddito bassissimo. Insomma, sono tanti effetti che distorgono l'intero meccanismo. Ancora, per quello che riguarda i vostri SMS, no, confermo che questa classifica è fatta guardando al costo della vita, è chiaro, se no non avrebbe nessun senso. Sappiamo tutti che in Gran Bretagna e in Germania il costo della vita è tendenzialmente più alto, soprattutto nelle metropoli. E ancora confermo che le tasse sul lavoro di Germania, Belgio e Francia sono più alte delle nostre, anche non di poco. Grazie al professor Garibaldi. Vi ricordo che su questo si è scatenata anche una polemica politica, ma ve ne parleranno i nostri GR. 17:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borse. Leggo l'ultimo messaggio sul tema di apertura, però, che riguarda sempre il tema dei salari. Alcuni di voi, non pochi, hanno scritto, immagino anche in maniera ironica: ma perché se i nostri salari sono tra i più bassi, dopo anche la Grecia e altri paesi, le aziende, le imprese non vengono a delocalizzare, cioè a investire in Italia? Lo sapete già, perché un'azienda e un'impresa non delocalizza solo per i salari, è un motivo importante. Ci sono anche le infrastrutture, i costi della burocrazia e quant'altro, perché sappiamo che da noi su questo fronte siamo poco appetibili, per usare quasi un eufemismo. La borsa. Più che buona la giornata oggi a Milano. 2% di rialzo l'S&P MIB e l'1,4% il MIBT. Considerato che lo stacco dei dividendi, ossia degli utili che vengono di un'impresa quotata, che vengono distribuiti agli azionisti, lo stacco dei dividendi pesa per un 2%, e cioè il titolo si muove nei giorni precedenti inglobando lo stacco del dividendo, altrimenti tutti comprerebbero il titolo il giorno prima, sarebbe troppo facile. Quando poi il dividendo viene distribuito, perde in maniera uguale. Non so, se un titolo vale 10 euro e tu stacchi un euro di dividendo, il titolo quel giorno lì perderà il 10% perché l'ha guadagnato nei giorni precedenti. Detto questo, Unicredito più 12,9 a 1,80 euro, CIR più 9,6, ST Microelectronics più 8,9, Banca Popolare di Milano più 8,2, Mediolanum più 7,80, Impregilo più 6,5, Telecom più 5,5 come il Banco Popolare e Fondiaria SAI. Ancora Intesa più 4,40, Fiat più 4,1, Monte dei Paschi più 3,80 come Ansaldo e Pirelli, Unipol più 3,6% come Parmalat, il 3,5% Tenaris, il 3,30% Buzzi Unicem ed Enel, il 3% il rialzo di Prismian, Saipem e Generali. Snam, unico titolo negativo tra quelli maggiori, meno 2,1%. Bene anche Francoforte e Parigi, il 2,5% di rialzo. Il Dow Jones più 1,80 in questo momento. Paolo Paronetto, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, visto che ci sono gli stacchi dei dividendi, quanto pesa su Unicredito e quanto sarebbe stato il rialzo? Ma no, l'andamento dei titoli che tu hai ricordato sono già calcolati tutti al netto dei dividendi. Perché guardavo il terminale, infatti sono scomparse le note che voi date come Radio Corri sui terminali ex stacco cedola, quindi di tutti i titoli, diciamo, la variazione è netta. Esattamente, è al netto del mercato, sugli indici no, e infatti come ricordavi tu sull'indice complessivo no. Esattamente. Cioè, allora Milano oggi avrebbe guadagnato il 3,40% al netto dello stacco cedola e il 4% su S&P MIB. Esattamente. E sarebbe stata la migliore, una delle migliori in Europa comunque. Allora, comunque il 12,9, il 13% su Unicredito, da cosa è giustificato? E anche teniamo dentro ST Microelectronics e CIR. Sì, per quanto riguarda Unicredit è da sottolineare che oggi in tutta Europa è stata un po' la giornata del comparto bancario, il sottoindice di settore ha guadagnato oltre il 5%, e per quanto riguarda l'Italia si è chiusa la tornata di trimestrali di tutte le principali banche, anzi proprio di tutte le banche, e dopo i dati che sono in gran parte si sono rivelati migliori delle attese degli analisti e soprattutto sembrano indicare un allentamento della crisi e quindi una possibile ripresa del business bancario nei prossimi trimestri. E molti analisti hanno corretto quindi alla rialzo le stime sui principali istituti e oggi tutti i titoli bancari ne hanno beneficiato, in particolare come ricordavi tu Unicredit che ha chiuso a più 12,92% e oggi l'istituto di Piazza Corduzio ha staccato il dividendo in azioni, ricordiamo, per 29 nuove azioni ordinarie ogni 159 possedute e secondo quanto riferito dagli operatori e l'occasione è stata il momento per molti investitori per riposizionarsi sul titolo che era su cui molti investitori erano scoperti dopo i cali dell'ultimo periodo, quindi per aggiustamenti di portafoglio molti investitori sono tornati sul titolo comprandolo a piene mani in giornata. Per quanto riguarda, quindi 29 nuove azioni per ogni 100 azioni possedute, così diamo anche un'informazione. Per ogni 159 59 azioni possedute. Perfetto. Esattamente. Per quanto riguarda il cinema, anche oggi un rialzo molto forte di oltre il 9%, secondo sul mercato sono circolate analisi che parlano di una grave sottovalutazione implicita negli attuali prezzi di borsa, soprattutto della controllata Sorgenia. In particolare, secondo i calcoli fatti da alcune banche d'affari, agli attuali corsi di borsa di CIR il 52% di Sorgenia viene valutato circa 800 milioni contro un valore che viene stimato a oltre 1,5 miliardi, quindi queste valutazioni hanno portato molti investitori a rivalutare le azioni CIR e quindi a spingere alla rialzo i corsi in modo da inglobare più correttamente il valore della controllata Sorgenia. Per quanto riguarda infine ST Microelectronics, che ha chiuso a più 8,92%, a spingere alla rialzo le quotazioni è stato un report di Goldman Sachs che ha alzato le stime su tutto il comparto semiconduttori europeo e in particolare su ST ha corretto alla rialzo il rating a buy dal precedente neutral. Bene, anche altri titoli si diceva, infatti Telecom Italia più 5,60, qui c'è un giudizio di Citigroup. Lo ripeto, a me fa impazzire che Citigroup, che è entrato oggi nel listino dei falliti in America, poi sia brava a dare giudizi, però mica è proibito dalla legge. Citigroup ha alzato il giudizio su Telecom portandolo a buy, a comprare dal precedente tenere, e va bene, questo fa parte delle amenità del mercato. Parmalat sale, ma soprattutto sale oggi in pregiro, e qui c'entra anche Sole 24 Ore, la lettera agli investitori. Sì, esattamente, oggi il titolo è stato comprato, ha chiuso a più 6,44% dopo le indicazioni fornite dai vertici della società. Il Sole 24 Ore in pregiro ieri è stato protagonista della consueta lettera all'investitore del quotidiano, e secondo quanto riportato l'EBIT a fine anno è previsto stabile rispetto all'esercizio scorso a circa 190 milioni, e inoltre secondo il giudizio formulato dal presidente Massimo Pontellini, dopo un 2008 che si è confermato come anno della svolta, l'esercizio in corso appare molto positivo per la società. Pontellini sottolinea in particolare che si vedono i primi elementi di volontà concreta di realizzare le grandi opere, di cui ovviamente Impregilo è uno dei principali realizzatori in Italia. Grazie a Paolo Paranetti di Radio Colli, il Sole 24 Ore. Altri titoli, bene Fiat, visto che ne parleremo fra poco, più 4,1 come Intesa San Paolo, il 5,5 della fondiaria della Popolare abbiamo detto, Monte dei Paschi più 3,80, Ansaldo STS più 3,70 come Pirelli e Unipol, i migliori e peggiori, Eurofly più 16,7% e Indesit più 13,6%, tra i peggiori invece Class meno 3,60, la Lazio meno 5,15, Mariella Burani Fashion Group meno 6,4%. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di industria metalmeccanica all'Italia e soprattutto Fiat. Andiamo con ordine, più che buona la giornata in borsa si diceva, e devo dire che insomma i titoli li abbiamo ricordati tutti, e appunto al netto dello stacco della cedola saremo al 4% di rialzo. Per quello che riguarda altri messaggi, tutti gli statali hanno il doppio lavoro in nero, e si riferisce alla classifica dell'OCSE sul potere d'acquisto degli italiani. Allora, che tutti i dipendenti pubblici abbiano doppio lavoro in nero, attenzione ai luoghi comuni, perché li contestiamo anche quando dicono che tutte le partite IVA sono evasori fiscali. Non si può andare avanti così, a slogan così da struzzi, senza N di mezzo. Andiamo avanti con l'Alitalia. Perché? Perché oggi incontro tra Roberto Colaninno, presidente dell'Alitalia, e il presidente degli aeroporti di Milano e quindi anche di Malpensa, Giuseppe Bonomi, incontro promosso dalla Camera di Commercio americana. Chiaramente si è parlato del destino di Malpensa, dopo che Alitalia ha chiarito per l'ennesima volta che proprio l'unico amore su Fiumicino, Malpensa e un aeroporto come gli altri. Colaninno però oggi ha precisato, stiamo pensando comunque, non vi dico le date, ma stiamo pensando di far partire anche dei voli intercontinentali quanto prima da Malpensa. Ripeto, la nostra intenzione è quella di essere presenti anche sull'aeroporto di Malpensa. La nostra scelta di Fiumicino non è stata una scelta sì Fiumicino e Malpensa no, è una scelta di tempi legati ai tempi del rilancio di Alitalia, e quanto prima noi ritorneremo anche su Malpensa, soprattutto con gli intercontinentali. I tempi sono quanto prima, il tempo è il tempo di risanare l'Alitalia. Noi abbiamo ottenuto per i primi mesi dei risultati molto incoraggianti, perché positivi, e quindi pensiamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati col nostro piano. Così Roberto Colaninno, intervistato dal nostro Paolo Piacenza. Quanto alla SEA, ossia al presidente Giuseppe Bonomi, molto freddina la sua accoglienza, giustamente, insomma, in qualche modo dico, non vedo grosse novità. Che l'Italia presenti progetti concreti, noi intanto andiamo avanti a cercare un altro partner. Nelle interlocuzioni dirette che abbiamo avuto l'ha sempre detto, e io gli ho sempre risposto alla stessa maniera. Le intenzioni sono assolutamente positive e ben accette. Quando le intenzioni si tradurranno in progetti, le esamineremo, e qualora i progetti si attuassero, daremo il nostro supporto. Ribadisco, la nostra azione industriale è chiara, e la nostra azione industriale su Malpensa prescinde dal fatto che l'Italia sia il vettore di riferimento su Malpensa. Non è una novità, è un piano che noi abbiamo lavorato nei primi sei mesi del 2008, CAI non era ancora nata, però conserva intatta la sua validità, visto che CAI prosegue, diciamo, senza soluzione di continuità rispetto alla pianificazione che aveva l'Italia precedente. Noi crediamo di avere oggi, è un paradosso perché stiamo soffrendo, come noto, come stanno soffrendo tutti in tutta Europa. Noi soffriamo per due cause, in tutta Europa si soffre per una causa sola, mi riferisco alla crisi sui mercati internazionali. Noi soffriamo anche perché solo poco più di un anno fa abbiamo avuto il de-hubbing, quindi una contrazione di traffico derivante dalla dismissione dell'attività industriale del nostro precedente vettore di riferimento. Però paradossalmente oggi abbiamo un assetto industriale più stabile, più equilibrato, direi anche più solido, perché mentre prima SEA dipendeva in misura assolutamente prevalente dalle sorti di un unico vettore, cioè di Alitalia, oggi abbiamo più vettori di riferimento, abbiamo un vettore di riferimento per ogni terminal che noi gestiamo. E noi restiamo in tema di economia italiana, però non della vicenda Alitalia Malpensa, per parlare del mondo metalmeccanico. Da diverse parti si fanno stime su come sta andando il ciclo economico nelle regioni più sviluppate. Se ne è parlato sabato a Pordenone per quello che riguarda l'area friulana, con diverse difficoltà anche nel settore metalmeccanico, ma non solo. Pensiamo, come ha scritto Sole 24 Ore, alle difficili trattative della Porcia, della più grande fabbrica di lavatrici al mondo, quella dell'Electrolux, 400 cassa integrati. Oggi Federmeccanica ha presentato il rapporto complessivo, la 110ª indagine trimestrale sull'industria metalmeccanica italiana, uno dei pilastri delle 4A del nostro export, ossia significa 60.000 imprese e 1.600.000 addetti. E sono dolori nei primi tre mesi, meno 30% la produzione industriale rispetto a un anno prima, e dolori anche rispetto al trimestre precedente, quella che si chiama variazione congiunturale, meno 13,4% rispetto agli ultimi tre mesi del 2008. 4 imprese su 10 prevedono nei prossimi sei mesi una riduzione degli occupati. Invito anche il governo a stare cauto con, per quel poco che può contare, mi invito con le dichiarazioni di pochi disoccupati, pochi cassa integrati. Aspettiamo settembre e esorcizziamo tutto con il gufo, ma aspettiamo settembre, perché le imprese hanno usato le ferie in questo momento, dei dipendenti, le ferie arretrate, i permessi. Speriamo che la domanda interna e quella estera ripartano da settembre in poi. Comunque, 4 imprese su 10 prevedono una riduzione dei propri organici, imprese del mondo metalmeccanico, e una occupazione che già nei primi due mesi è diminuita del 2%. La cassa integrazione, il ricorso alla cassa integrazione è aumentato di 10 volte rispetto ai primi due mesi del 2008. Allora sentiamo Luciano Miotto, vicepresidente di Federmeccanica, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. I nostri dati hanno evidenziato che durante il primo trimestre del 2009 le cose sono andate peggio del trimestre precedente. I dati conclusivi indicano un'annata veramente brutta, una previsione per un PIL che effettivamente sarà almeno meno 4, forse meno 5% rispetto all'anno precedente. Oggi ha qualche indicazione, diciamo negli ultimi 15 giorni viene qualche indicazione positiva, però direi che una rondine non può fare primavera e che abbiamo bisogno di qualche cosa di più sostanzioso per poter sperare che le previsioni per il secondo trimestre e in generale per tutto il 2009 possano, non dico diventare positive, ma meno negative. Comunque ci aspettiamo un'annata veramente negativa. Quindi un andamento negativo che si riflette anche sulla produzione, sul fatturato, anche sul ricorso alla cassa integrazione? Un andamento negativo che si riflette su tutti i fattori della produzione, per cui diminuzione della produzione, diminuzione dei fatturati, diminuzione delle ore lavorate, diminuzione dell'occupazione. L'aspettativa è numeri negativi, non ci sono indicazioni per poter pensare che l'anno 2009 possa essere un anno nemmeno in grado di raggiungere i valori del 2008. Speriamo che si sbaglino, però temiamo che non sia così. Lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Per ora abbiamo evitato il 29 sui mercati azionari. Aspettiamo prima di dire che tutto il resto è passato. Lasciate stare i commenti della politica in campagna elettorale con i dati congiunturali macroeconomici. Poi giovedì trasmetteremo in diretta alle 10 il discorso del presidente Confindustria Marcegaglia per l'assemblea annuale, quindi 10:30, e quindi lì capiremo anche qual è la prospettiva che dal punto di vista degli industriali. La vicenda Fiat, oltre alla solidarietà espressa da più parti, ricordavo anche quella di Federmeccanica a Gianni Rinaldini e Giuseppe Farina, rispettivamente segretario della FIOM CGIL e numero uno della FIM, oggi, non lo diciamo noi, lo ha detto Angela Merkel, lo ha detto ieri, si entra nella fase decisiva per la vicenda Opel Fiat, settimana, giorno più, giorno meno. La scadenza infatti è mercoledì 20 maggio per la presentazione dei piani al governo tedesco da parte dei potenziali acquirenti, e la Merkel ha anche confermato il suo appoggio alla proposta per una temporanea amministrazione fiduciaria controllata, insomma, della Opel. E oggi Super Marchionne, come l'abbiamo battezzato, ossia l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, è volato di nuovo in Germania, ha incontrato il capo di General Motors Europe, quindi di Opel, Karl Peter Forster, e il numero uno della Opel, Hans Demant. La cosa più nuova, oserei dire, oggi arriva dalla stampa tedesca, ossia il settimanale tedesco delle quattro ruote, citando una persona vicina a Sergio Marchionne, sostiene che secondo il piano Fiat, che il piano Fiat per Opel prevederebbe la soppressione, la chiusura del marchio Lancia. E poi ancora, la svedese Saab verrebbe fusa con la Chrysler per produrre modelli sportivi e decappottabili. In attesa di capire come sarà la settimana, noi ci colleghiamo con Andrea Malan del Sole 24 Ore, la voce anche di Radio 24, quando parliamo di cronaca del quattro ruote. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Iniziamo col capire una prima cosa. Nel mese in cui esce Angeli e Demoni, su cui la Lancia ha fatto un'operazione di marketing che hanno ripreso tutti i giornali, usando la Lancia Delta 1800 200 cavalli, il restyling, se abbiamo visto, anche di altri modelli, si parla di vendere e di chiudere la Lancia? Beh sì, la cosa è abbastanza curiosa. Diciamo che la Lancia è da anni il marchio più debole del gruppo Fiat. Ha venduto l'anno scorso tra le 120 e le 130 mila unità, di cui oltre l'80% in Italia, quindi un marchio molto italiano che ha avuto negli ultimi tempi parecchie difficoltà ad affermarsi all'estero e di cui è un corso, come hai detto tu, un tentativo di rilancio. Diciamo che l'ipotesi di una sua sostituzione tra virgolette col marchio Opel è abbastanza priva di senso, dato che si tratta di due marchi molto diversi anche come target sul mercato. Quello che si potrebbe ipotizzare in futuro è che la Lancia finora è stata un modo per Fiat per far funzionare al meglio le sinergie produttive, realizzando su una stessa piattaforma modelli con marchi diversi e quindi coprendo meglio il mercato. È chiaro che nel caso di una fusione con Opel, in un futuro le sinergie produttive potrebbero essere raggiunte con autovetture della Opel prodotte sulle stesse piattaforme di quelle Fiat e quindi potrebbe essere forse meno necessario disporre anche di un modello Lancia, però appunto parliamo sempre di ipotesi. Ricordiamo che in ogni caso, come abbiamo seguito nelle ultime settimane, di piani attribuiti alla Fiat o ai suoi consulenti ne sono circolati molti. È probabile che comunque lo stesso Marchionne abbia gestito in maniera molto flessibile il suo approccio a seconda anche dello stato delle trattative. Ne sapremo qualcosa di più, anche se non sapremo probabilmente tutto mercoledì, quando dovrebbero appunto, come hai detto, venire presentate le offerte dalla Fiat e dalla sua concorrente, la canadese Mazda. Eh sì, mercoledì capiremo tutto, o perlomeno capiremo un po' di più rispetto adesso, perché le offerte sul piatto sono due. Lo dico a chi scrive al 349-238-6666, c'è la Fiat e poi c'è l'austro-canadese Magna con la russa Gas dentro, e poi non sappiamo, si sono un po' defilati i fondi, mi sembra, i fondi degli Emirati Arabi da questa vicenda. Andrea Malan, mi sembrerebbe così improbabile una chiusura della Lancia a breve, che poi lo stabilimento di Termini Merese, dove viene prodotta anche la Lancia, sia uno stabilimento che con cui Fiat ha grosse difficoltà, questo lo sappiamo tutti. Ma è vero che comunque è stato anche posticipato qualche lancio, qualche restyling dei modelli Lancia, scusatemi il gioco di parole? Sì, beh, come quasi tutti i costruttori, Fiat in questo momento sta, per usare un'espressione comune, tirando la cinghia, quindi sta cercando di risparmiare su molti tipi di costi, tra cui quello del lancio dei nuovi prodotti. E si è saputo la settimana scorsa che la nuova Y, che avrebbe dovuto essere lanciata l'anno prossimo, slitterà invece di un anno. Si è saputo tra l'altro curiosamente nel momento in cui l'Unione Europea ha approvato un finanziamento di una quarantina di milioni di euro proprio per l'avvio della nuova produzione. Ma diciamo che per ora, dal punto di vista della Fiat, l'unico lancio che è sicuro, diciamo, nei prossimi 12 mesi è quello dell'erede dell'Alfa 147, che era già a uno stadio molto avanzato di progettazione e che dovrebbe arrivare sul mercato all'inizio dell'anno prossimo. Credo che gli avvenimenti degli ultimi mesi e quindi la turbinosa ricerca di alleanze, di una crescita del gruppo, abbia un pochettino fatto passare in secondo piano il discorso dei nuovi piani, nel senso che è ovvio che se partisse effettivamente un'alleanza con Opel, anche i piani, diciamo non a brevissimo ma sicuramente a medio e lungo termine, anche i piani prodotto dovrebbero essere completamente rivisti per adattarli alla nuova situazione. Andrea, adesso la domanda più difficile, e voglio una risposta in un secondo, però visto che mercoledì si chiude l'offerta, la data ultima per le offerte, quante possibilità dai a Fiat? Beh, non lo dirò io, anche perché nessuno ha fatto previsioni. Direi, essendo due le offerte, salomonicamente possiamo dire il 50%. Anche se dal punto di vista industriale è probabile che per una soluzione di medio-lungo periodo lasciando da parte per un attimo tutti i problemi di chiusura di stabilimenti, riduzione di organici, eccetera, dal punto di vista industriale è probabile che la Fiat sarebbe la soluzione migliore per Opel. Come avete detto già prima, gli attori in gioco sono talmente tanti, perché l'offerta verrà presentata alla Commerzbank, che agisce per conto di General Motors, ma ci metterà una parola fondamentale anche il governo tedesco, che dovrebbe mettere i soldi per il rilancio, ma anche il governo americano, che non vorrebbe vedersi tra virgolette sfilare la Opel nel momento in cui sta tentando di salvare la General Motors mettendo lui anche dei dollari. Quindi è una situazione estremamente complicata. Allora, nel salutare e ringraziare Andrea Malan, vi faccio ascoltare in conclusione di programma quanto uno spot che sta girando in America, in spot televisivo della Chrysler, esalti l'alleanza con la Fiat, che permetterà alla Chrysler di andare nei veicoli ecocompatibili. Insomma, grazie agli italiani, anche la Chrysler fra macchine più competitive. At Dodge, Chrysler and Jeep, we're building a new car company. Right now, we're restructuring to be stronger, leaner and more competitive. Our new alliance with Fiat gives us access to even more high-quality, environmentally friendly, fuel-efficient vehicles. It's all part of our continuing mission to build the cars and trucks you want to drive. Plus, we have the best lifetime powertrain warranty in the industry, backed by the U.S. government. At Dodge, Chrysler and Jeep, the future's not only bright, it's electric. Come see what we're building for you. Insomma, è incredibile vedere che uno spot per la Chrysler dica in America la nuova alleanza con Fiat ci consentirà di costruire veicoli con una qualità ancora maggiore e sempre più ecologici ed efficienti. Chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.